Pane, burro, rock and roll, direi che sono le 8 spaccate in questa nuova stagione. Alle 8 suonano gli uccellini qui a Pane, burro e rock and roll. Come dici, Spadino? Ah, pure il gallo ci abbiamo quest'oggi per svegliarvi. Siamo al reparto sveglia e da lunedì che tentiamo di svegliarvi con un capolavoro, fammi aprire il vinile, con un capolavoro targato Beatles. Here comes the sun. Cari amici, cari amiche, che vi siete svegliati solo adesso, buona giornata. Vi siete persi un'ora di pane, burro e rock and roll, ma tranquilli, ce n'è un'altra, di quelle che fa il botto. Era un filo scaramantica. Abbiamo deciso di riprendere la stagione di pane, burro e rock and roll sotto la benedizione dei Beatles. Mi sembrava una cosa carina, visto che anche la prima stagione di pane, burro e rock and roll aveva chiesto una mano con i Beatles di Good Day Sunshine. Ve li ricordate? Lo siete già dimenticati. Padino, ce l'hai ancora in giro o è finita? Sai che non ce l'abbiamo? Mannaggia, la settimana prossima bisogna riprenderla. Allora, per il reprise di pane, burro e rock and roll, volevamo iniziare con questa meravigliosa Here Comes the Sun, che ci terrà compagnia ancora domani. La solidarietà che c'è tra i nostri radioascoltatori è impressionante. Andrea, uno di voi là fuori, ha lanciato un messaggio nella bottiglia, come chiamiamo, una message in a bottle, come viene chiamata dai police. Il suo capo gli ha affidato 25 euro per un pezzo di ricambio del rasaerba e lui non l'ha comprato, non sapeva cosa dire. Abbiamo le prime segnalazioni. Qualcuno dice: puoi dire al capo che ti hanno derubato, così i soldi te li tieni pure. Puoi dire al capo, scrive un altro, che non sei riuscito a comprare il pezzo perché non l'hai trovato e le aziende dei pezzi di ricambio dei rasaerba stanno aprendo solo ora dopo la chiusura estiva. Se così non va bene, prosegue il messaggio, puoi anche mandarlo a quel paese. Ci sta sempre bene. E un ultimo veloce firmato Marco. Caro Andrea, di al capo che ti sei bevuto seri, sei birre. Se il capo è uno serio, capirà. Questo è il tenore delle segnalazioni che arrivano per il nostro amico Andrea. Tanti gli altri amici che scrivono, vedrò di salutarvi tutti. Abbiamo ancora parecchi appuntamenti qui a Pane, Burro e Rock and Roll. Verso le 8.30 l'appuntamento con il quiz, per scoprire se sei un vero rocker oppure no. Testa attitudinale. Abbiamo ancora i compleanni del giorno, ritardatario ritardato. Chissà cosa ci combina oggi Freak. Insomma, ce n'è di carne da buttare al fuoco. Intanto io ci butto sopra un pezzo di carne che risponde al nome di Aerosmith. Questa è la strepitosa Sweet Emotion. Buon viaggio, fratelli. Buon viaggio, sorelle. Siete sulla strada del rock and roll. E con voi c'è Rock FM. E Mr. Trombetta. Guardi che faccio l'impennata. Smettiamola di scarrozzare con le nostre motociclette inventate e diamo carne a questa trasmissione che offre la colazione carne a colazione, insomma. Beh, era una metafora pregna di significato. Sì. L'almanacco l'abbiamo fatto, ci mancherebbero i compleanni del giorno, sempre se le va, Frick. Assolutamente no. Lo facciamo fare a Spadino. No, lo voglio fare io. Lo facci. Allora le dirò che il 6 settembre, ma del 1757, il marchese di Lafayette nasceva. Venne al mondo. E chi era il marchese? Era un nobile e rivoluzionario francese. Morirà nel 1834. Oui, Lafayette. Così. Je suis vive la France. Vive la France. Vive la France. Vive l'Italie, vive la France. Garçon pipi. Je suis Lafayette. Va bene, proseguiamo che è Lafayette meglio. Lafayette credo che sia anche una il via. Nome, una via, forse anche un boulevard, forse anche... No, quella è la baguette. No, la baguette. Sì, no, la baguette, Lafayette c'è una bella assonanza. Ma dicevo, vede come la secondo. Dica. Ma dicevo, Lafayette è il nome anche di grandi magazzini, credo, francesi. I magazzini Lafayette. Che salutiamo, che nel salutiamo. Caso fossero parenti. Esatto. Ciao magazzini. Siamo a un compleanno italiano, nasceva nel 1925. Il 6 settembre il grande scrittore, autore televisivo italiano, giallista di vaglia di grande qualità, Andrea Camilleri, tra l'altro il papà, l'autore di Montalbano Sogno. Non mi è sfuggito scrittore di vaglia. Mi è piaciuta molto. La ringrazio. La riciclerò il prima possibile. Un compleanno immancabile per gli amanti del rock. Nasceva nel 1943, il 6 di settembre. Nasceva Roger Waters. Ruggero Acque. Esatto. Grande musicista britannico, leader dei Pink Floyd. Il fluido rosa. Questa sì che è una bella chiusura alla grande. Sì, sì, sì, sì. Allora non gliela sporco ricordandole... Non me la sporchi, la prego. Che nel senso migliore del termine, non si offenda Tormento, rapper italiano, perché lo ricordo, sì, bonariamente, facendogli gli auguri, è nato nel 1975. Guardi. Appunto il 6 settembre. Non mancano i ringraziamenti alla redazione, ma avrei preferito chiudere con Roger Waters. Ha rovinato tutto come sempre. Scusi, ma io volevo contribuire alla buona riuscita di questo almanacco. Sono disperato e dispiaciuto. Ma non è colpa sua, non è colpa sua. Grazie. Down to die, going on up to the spirit. classicerrimo. Doctor and the Medics, Spirit in the Sky. Tra l'altro sono legato a Doctor and the Medics perché svariati anni fa, quando iniziavo la mia carriera nel mondo del rock and roll, tra le tante cose che ho fatto, ho anche organizzato concerti live in piccoli club delle mie parti. Uno in particolare che ricordo si chiama tuttora Circolone di Legnano, che è un circolone, come dice la parola, piccolino. E un giorno ricevo la telefonata: guarda, abbiamo i Doctor and the Medics che gli è saltato un concerto, puoi farlo tu? Io ho cercato di spiegare che appunto il Circolone di Legnano era un circolino, però insomma mi sono tolto lo sfizio di far suonare i Doctor and the Medics a Legnano, e così li ricordo sempre con molto piacere. 335 100 77 77, il numero di SMS che vi mette in contatto con Rock FM e al mattino con Pane, Burro e Rock and Roll. Vi chiedevo quest'oggi se gli afate o gna afate. Mi rispondono in genovese: Nugafasu. Sì, effettivamente potete scriverlo anche nel vostro dialetto. Steno invece si lamenta: Doctor and Medics quando si guida, grave errore. Perché ti metti a farlo stupido, vi capisco io. Vi conosco, mascherine. E un abbraccio caloroso anche a una neomamma che alla mattina presto, dopo la poppata delle 7, dice: mi fa tanto piacere sapere che c'è Pane, Burro e Rock and Roll. Baci a Seliena. Un saluto particolare anche a te. 8 e 18 minuti primi. Tra pochissimi minuti l'appuntamento con il test attitudinale, atteso sempre con un filo di paura da parte di radioascoltatori, che hanno la codina di paglia e hanno paura di sbagliare le nostre domande. Anche quest'oggi ovviamente avremo l'appuntamento con la domanda del test attitudinale con Roberto Fricantoni. Per prepararci all'evento, quasi quasi il buon Spadino, ti ho capito Spadino, regalatevi un po' di pace, cercate l'oasi del vostro deserto. Questi sono i Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Thank you. there's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for relief. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand up Come fare per essere dei veri rocker? Questa è la domanda che arrovella gran parte dei nostri radioascoltatori. O nascere a Bologna e chiamarsi Fricantoni, oppure accumulare punti per diventare veri rocker. Ma sì, tante sono le strade, ma certamente quella maestra prevede l'ascolto di Pane, Burro e Rock and Roll e le risposte nell'angolo del test attitudinale. E ci caschiamo a pennello col test attitudinale che quest'oggi, grazie alla nostra redazione, parla di film. Siamo cinefili quest'oggi. E anche un po' sempre cinofili, perché i cani sono continuamente nei nostri cuori. Parliamo di comparse famose. Ricorderete tutti il film Ritorno al futuro 2 e Ritorno al futuro 3. Sequel del ben celebre Ritorno al futuro. In questi due sequel comparve un attore in un ruolo minore e questo attore era un celebre rocker. Sapevate chi? 3 opzioni. Prima possibilità: questo rocker era Alice Cooper. Chissà. Seconda possibilità: il soggetto in questione è Flea, bassista dei Red Hot Chili Pepper. Chissà. Ipotesi numero 3: si tratta di Ozzy Osbourne. Fate la vostra scelta. Naturalmente, la soluzione ve la diamo tra poco, o meglio, la risposta a dopo. Yatta tira tira tira tira tira tira.